Ma hola. Bene, va bene Natale. Eia, lo stavo controllando, capito? L'ho richiuso. Ma che va benissimo. Manca tutto. Io ho chiuso tutto già. Bella chiara la voce. Nessun disturbo. Radio Super 5 qua da me. Yes. Andrà bene Meda. Poco fa c'era il ricevitore acceso e mentre parlava quello dell'Olanda ha parlato un altro e non ho sentito quello che ha detto, perché il ricevitore era più forte. Ho capito, sì, ti ha sentito, ha detto che ascoltava all'altra stazione pure, Natalino, ha detto, perché gli avevo detto il tuo nome. Però poi è scesa la propagazione e non l'ho più sentito. E vabbè, anche con 4 watt mi sentono, hai visto? Lo so Natali, se l'antenna è libera, piazzata bene, ha un buon filo con una discesa ottima, tu non è che hai tutti questi metri poi, ma anche io non è che ne ho tantissimi poi alla fine dei conti, Io l'altro giorno la Grecia, dappertutto, a mezza Europa, quando c'è la propagazione verso nord o verso sud, quando viaggia la propagazione mi sentono e sento un sacco di roba. Me lo posso immaginare, e io non, praticamente non ho niente, nessuna potenza, c'ho questo baracchino omologato e boh. Non posso andare manco nei canali più alti perché non ce li ho qua. Questo ho preferito lasciarlo omologato e boh. Hai fatto bene, visto le rotture di scatole, già va bene, tanto se ti devono sentire quando c'è propagazione con 4-5 watt ti sentono lo stesso, Natali. Ma la banda laterale ce l'hai? Sì, c'ho AM, FM, banda laterale, CW doppio, qua, però canali non ne ho, perché non agisce l'affare, la leva. Dovrei avere i canali bassi, quelli normali e quelli alti. Sì, ho capito. Niente, ma lasciala così al limite e poi in seguito si vedrà se potrai, capito? Cioè ci vuole poco quella a farla, diciamo, a ampliare di banda. E infatti, no, ma lo lascio omologato questo, in modo che anche quando, se prendo quella roba che devo prendere, qua parlo con questo e boh, capito, non c'è da fidarsi. Fai bene. Qua diciamo che io rotture di scatole come da te non ne ho avuto, per cui non mi rompe nessuno, ma se questo che ho io, 747, lo metto in macchina, già lo tolgo, quindi qua sono a posto. E infatti, in macchina va meglio, non hai bisogno di attaccare nulla lì, con quell'antenna che ti ritrovi. Infatti, già viaggio lo stesso, diciamo che si consuma anche meno energia elettrica, perché quando attacchi con questo già ne ciuccia di energia. E infatti, secondo me è fatto male attaccare quel dipolo orizzontale, me l'avrei messo sotto, ma aggirava quando ce l'avevi tu oppure era fisso? No, era fisso, pensa che proprio oggi ce l'avevo in mano perché era giù in garage e stavo un po' mettendo a posto che ho la giornata libera, stamattina sono sceso giù e l'avevo tutto pulito, gli ho tolto tutto l'ossido, tutto quanto, no? E l'ho praticamente fatto in quattro parti e l'ho, diciamo, con lo scotch, quello da carrozziere, capito, che non lascia poi niente, l'ho tutto fascettato e l'ho messo da una parte e ho detto o me lo piazzerò da qualche altra parte questo, no, però non si poteva ruotare, anche se lo dovessi piazzare un giorno a Bonorva quello e lo metto in polarizzazione orizzontale, siccome là c'è un terrazzo bello grande, metto il tubo anziché stringerlo molto, capito? Lo stringo un po' di meno e metto il grasso nei bulloni, quindi quando lo voglio girare da una parte lo giro, e quando lo voglio girare da un'altra parte lo giro manualmente. Ma chi te lo fa fare? Li metti in un motorino di quelli piccoli, tanto il peso non è eccessivo di quelli di Polo, e lo fa girare col motorino, capito? Da casa tua stesso, prendilo e fa girare, no? Perché qua ho questa che è abbastanza alta, capito? Quindi metterlo sotto, lo dovrei mettere sotto questo, oppure spostarlo proprio da un'altra parte. Ah, sotto lo metti in polarizzazione orizzontale come ce l'avevi prima, se mi hai detto che facevi di X, lo metti in posizione orizzontale con un commutatore d'antenna e così fai le prove, no? Come arrivi più forte, o col dipolo o con quell'antenna lì, capito? Se uno parla in orizzontale e tu lo metti in polarizzazione orizzontale, fai le prove, no? Ho capito, sì, quello sarebbe anche interessante da provare, magari un'altra discesa di filo con il commutatore d'antenna, capito? E così provi sia prima una e poi l'altra, e vedi in base al segnale che hanno gli altri, no? Perché molti per fare VX già usano la polarizzazione orizzontale, capito? Perché non ce n'è rispetto ad altre polarizzazioni. Quando viaggi che c'è propagazione con quella polarizzazione arrivi molto più lontano. Infatti è per quello che te la volevo dire, e poi serve anche per ascoltare, capito? Avendo due cavi puoi mettere uno in polarizzazione orizzontale, lo metti in ascolto, e l'altro in polarizzazione verticale per qua. Ho capito, sì, mi sa che me lo posso anche organizzare quello. Se trovo un rotorino piccolo che riesco a pilotarlo, in effetti non sarebbe male l'idea. Li vendono i control box, quelli per antenna TV, quelli leggerini. Metti quell'affare lì e lo metti sopra il motore e può girare pure al limite. E lo spazio ci sarebbe pure per metterlo sopra, lo avrei pure. Solo che devo studiare proprio come funziona anche il rotore, perché non ne ho mai avuto, capito? Quindi non so se va alimentato oppure se prende tutto dal cavo dell'antenna, non ho la più pallida idea. No, va alimentato, ti danno il control box da giù, quando giri tu, gira anche l'antenna, quando giri l'affare del control box, capito? È fatto apposta. Capito. Devo vedere un po', dai. Questo se lo faccio lo farò sicuramente ormai dopo l'estate, quando inizia un po' a rinfrescare verso settembre, dai, entro l'autunno, prima che inizi l'inverno, perché poi salire su è un casino con le giornate ventose. Però mi devo organizzare bene prima. Sì, perché lasciarlo buttato così giù non è la cosa migliore. Infatti ho detto, se mi capita qualcuno che ha necessità di una antenna così, gliela propongo, se la vuole gliela vendo, perché è ben tenuta eccetera, è in alluminio, è della Sirio, l'SD27 è fatto bene, capito? Alluminio leggero, però capito, non è difficile da piazzare, si presta regolarmente anche a regolare il ROS e a anche una bella larghezza di banda pure, se lo regoli bene. E tu punti il rotore, punti il control box a nord, capito? E lo colleghi al motore in modo che vada a nord lui, e poi posizioni l'antenna a nord, così sai sempre dove l'antenna, la metti a sud e l'antenna gira a sud. Ho capito, sì. sì, anche quella che ho adesso, diciamo, è indirizzata verso nord, diciamo, verso Porto Torres, e l'ho mandata, capito? E conviene fare così, in effetti. E allora, la punti a nord, il control box deve segnare nord, quando segna nord è a posto, e poi metti l'antenna a nord, così sono sincronizzati praticamente. Se l'antenna è a nord, anche il rotore deve essere a nord, in modo che sia puntata verso nord. Poi ti capita di girare, sai sempre dove è girata l'antenna. Ho capito. Diciamo, non è neanche, una volta messa, non è neanche tanto ingombrante, capito? Già è abbastanza contenuto come dipolo, perché non è il classico dipolo filare, capito, che è più lungo, eccetera, c'ha gli isolatori, per cui ha necessità di più spazio. Questo è, rimane sospeso, capito, col suo tubo, e niente, quindi dovrei riuscire anche a sistemarlo così affinché giri, capito? E infatti, non ti costa niente a farlo, molto l'avevi pagato quello lì. Mi ricordo una quarantina di euro, ma diversi anni fa, adesso penso che lo faccia ancora l'assedio, credo che lo faccia ancora, ma non ho idea di quanto costa adesso, ma penso non costerà molto comunque, si è tenuto sempre basso, intorno a quella cifra lì, 70-60 euro nuovo. E se non lo trovo me lo costruisco, però lo faccio per i 10 metri io, così c'ho la polarizzazione verticale e orizzontale. Natalie, devo fare un attimo di bianco, che è venuta una persona a trovarmi, quindi ci sentiamo dopo, ti dispiace? Negativo, fai pure, non c'è problema, tanto io alle 6 e qualcosa devo uscire, che ho il corso stasera, quindi non c'è problema. Yeah, va bene, allora al limite ci sentiamo quando finisci, se rientri dal corso, se ne hai voglia già mi trovi qua. Ok, se sei libero stasera al limite già ti faccio chiamata, va. Buona serata Natali. Ouais, t'as vu les bandes, mais les pecs, hein, t'as vu, bah bref, quand on voit les bibis les plus grosses, pour celui-là. Ah, c'est bah bon, ouais, t'as vu, ouais, il y a des sacs à bras aussi, bien, c'est, ouais. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Buonasera, ti dico, adesso non devo fare mento, ma tutto conoscerò, vai tranquillo. CQ canale 10. Carlo, ci sei? Marcolino Condo, ci sei? Marcolino, io che lo so che sei in agguato. Tutti morti, assenteisti, cazzo. Bebe. Eric, CQ10, CQ10. Qualcuno all'ascolto su questo canale? CQ10, CQ10, 10-10. Prova. Olbia. Prova. CQ10. Milumi. Avanti. Milumi, udiamo chi due. E allora? Ciao già. E allora 60 minuti sempre. più un quarto d'ora. Aspidina. Ma oggi mi metto quello subacqueo, il telefono, il coso, l'orologio, a proposito. Bene Meda. Si è accelato qualcuno? Ma poco fa c'era Marco, c'era. Cioè Marco, cosa mi fai dire? Carlo c'era poco fa. Solo che è andata gente a domo sua e quindi ha dovuto staccare. Apo comprendio. Tutti questi mandroni, cazzo, tutti mandroni questi. Questi modulatori, bobo. Assenteisti, di pure assenteisti. Catao, sai che a metà esce basso questo microfono, boh. Ma a metà è adesso? No, adesso è a manetta, l'MB più 4. Ma non si va più alto prima. Boh, Natale, io non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo come era prima, boh. Niente. Guarda, così a metà. Così è basso. Hai visto? Ma io lo usavo sempre a metà così e la radio andava bene. Boh. Gli ho messo la batteria nuova ieri, nuda. E allora vuole messa moneta. Cosa vuoi che ti dicchia? Oh, yeah. E quando lo metto così, guarda come va la radio. Va bene, Natale, va benissimo. Magari a metà è un po' più da salotto, dai. Un po' più tranquilla. Tranquilla, dai, diciamo. Ma è 5 a metà, oppure no? Oppure più bassa di 5? No, va bene, più tranquilla. Niente di così grave. Come un microfono normale, là. Più o meno, dai. Più o meno. Perché qui non ha manco modifiche questo microfono. L'ho lasciato normale. Roger K. Oi. Ah. Vediamo se c'è. Se il condor sta sorvolando la zona. Col becco aquilino. Marcolino Condor, io entro, tanto lo sappiamo che sei in agguato, mi. O cosa stai? Ridendo sotto i baffi? Qua mica pettiniamo i leopardi, hai capito? Già entra. Oh, yeah. Un attimino, vedrai che già entra. E starà pettinando le bambole, quello. Troia. Poi entra anche Massimiliano Bulldozer e ci facciamo due risate. E non credono, alle 6:30 devo uscire. Ah, che c'è la scuola serale, diciamo, dai. Perché devo andare al corso di radiatori e così divento radiatorista, imparo ad usare i radiatori. Bene Meda, ma è vero che una volta alla settimana? Una volta alla settimana per la durata di, cioè ogni sera quante ore dura una lezione? E un'ora e mezza. Che palle. Quindi dai, è abbastanza gestibile, niente di così stressante, dai. E infatti saranno una ventina di lezioni. Ok. C'è un sbadiglio, cazzo. Fatto vuoi. Io ho fatto sì, sennò che non avevo mai bevuto. Ero convinto che ci fossero i cremini in freezer, invece qualcuno se li ha mangiati tutti. E qualcuno tu? Già lo so io che se li ha mangiati. Il gatto? No. La mamma se li ha mangiati. Golosa. Se tutto va bene siamo rovinati allora. Sì, ho già trovato la colpevole. Ho guardato poco fa, cioè poco fa, l'ora di pranzo ce n'era un paio. Ma già invece un freezer vuoto, si sentiva anche l'eco. Un abbraccio. Non durano molto certe cose, spariscono abbastanza in fretta. Eppure cazzo, immagino una gana di mangiarmi in uno di Gixin. Ci vuole. Ci vuole. Poi soprattutto adesso a rinfrescare un po'. E chi è? L'indicativo di un ripetitore. C'è chi lo fa a voce, c'è chi ce lo fa in ciclo doppio. Ah, ecco. Roba che non conosco. E quando attivi un ponte, no? Ti dice che ponte è, praticamente. C'è la signorina che ti dice ponte ripetitore tot, capito? Oppure te lo fanno in CV doppia come quello che hai sentito. E c'ho il ricevitorino qua per ascoltare. E questo cavolo del baracchino che non anda né andare anzi e né andare indietro. Oh via! Ho capito. Tutti assenteisti, cazzo. Acciarettivi! Avvicinatevi tutti a questa macchina. Cazzo, tutta la sera sentendo propagazione, sto boh. Io c'ho avevo lo squelch abbastanza chiuso, quindi non sentivo nulla. E io tutto aperto. E se, anche se arrivano bassi, che la propagazione è loffia, li sento lo stesso. Oi, anda sabato. Sì, infatti. Più che domani. Oggi state a Vennari, da voi? Ciao Salvi. Buonasera a tutti. Ciao Saverio, ben entrato. Buonasera, profe. Allora, che si dice? Sono stanco. Una bacia all'ascia, c'è più vendi. Ande torra, che è? Da lì? Ande torra, sì. Allora, puccio torra, ande torra. Infatti, andendo tu rendi. Oh signor. Mon avis faut décharger. Mais. Arrivando stanno la propagation. Oh Savi, oggi ci scendi al corso, che c'è magnetismo e induttanze. Ah, così, Natale, ogni lezione c'ha un argomento specifico? Per forza, abbiamo già fatto i condensatori, le resistenze in serie in parallelo, prima l'atomo. Non prendo una matta, devo pigliare un libro, se no nada. Il libro, io mi stavo studiando dal libro. E sto studiando dal libro, tanto lui segue il libro e non è nuda di va. Se vuoi avere chiarimenti è meglio avere il libro. Così si studia anche le normative, perché su quelle sono severini, quelle le devi sapere. Codice Q devi sapere, il codice fonetico internazionale. Il fonetico è coso, alfabeta Charlie, bravo, alfa. Quello lì, devi sapere quello lì a memoria e anche il codice Q. E l'altro è QRZ, QRA, QRT, ISU. Lo devi sapere però, guarda che non è come lo diciamo noi, che è diverso. Guardalo nel libro che già c'è. Quando c'è 5 minuti che non stai facendo niente, dagli uno sguardo, sia a quei due che alle normative. Ma prima devo avere il libro, poi lo posso guardare. A parte che comunque, lo trovi tutto su internet, quello già non c'è problema, però il libro mi serve perché mi serve. Te lo ordini da internet come ho fatto io. tanto le pagine sono uguali al libro quello vecchio, quindi anche se il mio è quello nuovo è uguale al libro vecchio, uguale. E io ce l'avevo un altro di quei libri da quando ne avevo due addirittura di libri diversi di elettronica. Uno c'avevo quello verde e poi ne avevo un altro che mi aveva dato un amico e stavo studiando da lì io, quando ho dato gli esami li ho dati da quei libri, capito? Attenzione alla frequenza, ascoltate qua, città di Sassari, nord Sardegna, chiama, breco. Savi, non richiamare, se no entrano a rompicci di cazzo. E attenzione, da una girata di squelci, non intendi più. Ehi, vabbè, ma perché devo avere lo squelci chiuso? Poi con questa antenna l'intendo pure se arrivi nei massima raggiunti. Prima con l'altra la Papiusetti di QRM è visto. Un cazzo, se non arrivava almeno 8 non li sentivo. A me lo stai dicendo, uia. C'è la notte viso di matracchi, il suo baracchino. Tedeschi 9+20, dappertutto, Belgio, Olanda, Francia, tutta la Francia. Dipende da come gira la propagazione, ma arrivi in voltimi. Oh, come ti diciamo, subito mi risponda. Subito. La verità, guarda. Non c'è manco da paragonarla, questa posizione, con quella quando ero da mamma. Cioè, i collegamenti che sto facendo io, con l'antenna qua nel poggiolo, a Giumai non ha Giumatti, con una mantova a casa di mamma. Guarda, a me mi hanno sentito con 4 watt in Olanda poco fa. Ho parlato con un olandese, giustamente l'ho parlato in inglese, io e Carlo eravamo. E mi ha sentito, c'ho 4 watt qua a me. Quando si alza la propagazione non c'è nulla da fare, in FM eravamo. E Gappa ci conferma. Ci conferma, Gappa di positivo. Peccato che questo è omologato e non c'ho canali. Se no me ne sarei andato nei canali di chiamata in banda laterale, che mi avrei fatto qualche collegamento anche lì. Mimi, mamma mia, il profeta. Mi stavo preparando con una sigaretta. Si sente qualcuno sotto, Tanto nel canale di chiamata una manda sopra, Natali. Ci sono, ci sto chiamando due, uno francese e l'altro dalla Florida. 9, segnale 9+10, 8, manda laterale. Ma non ce li ho quei canali, questo qui non agisce perché è omologato, hai capito? Se io lo apro perdo l'omologazione, io non lo voglio aprire. Perché basta spostare un jumper e c'hai i canali, capito? Sotto, sopra, normali. E basta metterti il tastino, piccolino, piccolino, un bottoncino nascosto e diventa di nuovo 40 canali. Sì. No. La gabbia. Lo lascio com'è. Adesso mi sono salito una banda sopra, ho messo in USB a 27700, quanto cavolo è? Il canale di chiamata, il 12 sarebbe, però io qua non ho frequenzimetro. 27555, 27555, UQSL. Vieni con prepa una marcia. Sino a compare Girubani manco lo useramo mani. Olbia. c'è una leggerina piccola piccola sotto alternata. È un microfono da sbarco, questo non è alternata, sarà forse la batteria che si sta scaricando piano piano. Ora ora avanti avanti avanti sul canale, avanti sul canale per l'isola Sardegna Italia. QSL. Bonjour, bonjour monsieur. Guarda che bonsoir, siamo di sera. Bonsoir monsieur. Ça va? J'écoute la radio. Je n'écoute la roccio. Uffa. Allora, vuoi il picchiato a roccio? Ce ne cuto. Attento Pepino, Pepino Lufranzese, ascolti qua. Savvero l'inglese, cambio. No, non ti comprendi, è che non è ancora embriaco. Quando è embriaco io ti comprendo. Davvero, vedi che hanno soccorti, cazzo, vuoi usare salire su papita? E non lo diaffaurano. Cazzo. Tu dovevi vedere mio zio quando era accorto come parlava bene il francese. Perché c'era una francesina amica di mio cugino, che era venuta qua, però parlava solo francese, no? Cazzo, sta canabia, vedi, li sono compresi, di Bari. Anche sassarese parlava poi. Oh, yeah. Ancora c'è questo piccolo rosio. Aspetta, lascio un po' di portante bianca. E appena appena ce n'è. Probabilmente la batteria scarica. Ho un microfono che è accrocchiato, dai. Il vantaggio è che ha la molla del cavo molto morbida e quindi si presta per essere spostato, mentre l'altro è un po' più rigido ed è un po' più corto. Solo per questa comodità. Infatti. La radio, guarda, adesso è a metà Gianni. Non è che adesso va bene il microfono, no? Natalia, ma a che distanza ci stai parlando dal microfono? Saranno 30-40 centimetri, da. Anche quello conta, Chiaramente se ci pare lontano non spinge. Ma adesso sta spingendo però. Ed è a metà, mi. Bene, Meda. Va bene, Natalia. Adesso si sente l'amplificazione, da. Si sente, vediamo cosa dice Saverio. Sono qua atterrato che sto fumando, ditemi. Saverio, la radio com'è la mia? Buona, Radio Venere, segnale 9.30. No, volevo sapere la radio com'era solo, il segnale non mi interessa, lo so che ti arrivo forte. Mi serviva sapere, siccome l'ho messo a metà l'MB4, che non mi stava rendendo, evidentemente c'era qualcosa che non andava bene. E a posto, Radio 5, chiarissima, perfetta, abbastanza forte. È fondo scala, guarda, no, è sul 3, sì. Che beh. Va bene, Maria, vuol dire che ho scoperto perché non rendeva. Io ce l'ho a 8 l'amplificazione, lo posso levare ancora un paio di tacche, guarda un po', 1, 2, 3, la pepina fa il caffè, c'è la differenza, non lo fa. A voglia, però volevo sapere da Natalino di svelarci l'arcano. Guarda, adesso è a metà, adesso è a manetta, c'è la differenza? Eia, mi hai detto che hai scoperto l'arcano, e cosa sarebbe? Gli avevo collegato un cavo di massa, se io gli collego quello si abbassa l'amplificazione. Ma se non ce n'è motivo di collegare il cavo, cosa l'attacchi a fa' accusa, Ti ricordi tu, Natalia, mi hai detto, attacca un cavetto sotto e poi lo metti a massa un tubo d'acqua, roba del genere. Cosa ho fatto? Ho levato lo spezzone di RG58, ci ho messo lo spezzone di RG213, non me lo fa più quell'innesco, l'amplificazione regge anche a manetta, visto? Adesso a manetta. Ma quello era il ritorno di radiofrequenza, tu adesso l'hai accordato, invece quando c'era l'altro cavo era in disaccordo, perché un pezzo era 213 e l'altro pezzo era 58, hai capito? E c'era un disaccordo. No, c'era lo stazione di un metro dal 58, del 58 e poi c'erano 22, ci sono 22 metri di cavo e del 513 dell'antenna. E era disaccordato, dai. Aspetta, a questa l'FM dico di andare a giocare in un altro canale. Cioè non si capisce più. Attento, attento amico, attento amico, ascolti qua, mi sono sapendo. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, ascoltate qua, l'isola Sarda, isola Sardegna Italia chiama, Greco Quaselle. Oh signore. Adesso ho messo lo squelch. Attento, attento, amico, amico. Germani, Germani, ascolti qua, isola Sardegna, isola Sardegna, apparatore. Adesso li ha tirati tutti qui, mi. E allora, si cazzo di già, ma vai tutta venne a rompere i capi. E così non ne comprendiamo nulla niente noi. Che casino. Cazzo le sì, sono già. E sì, sì, mi preparo. Aspetta, vedi dov'è che mi ha risposto. Che guardiamo, sali un attimo in FM così capisci di che città è. Tu che parli di 12 lingue, Natali, sali. No, che mi devo preparare, cazzo, che sono in pigiama ancora. Ma non ti cambiare, scendi così, e poi se no dopo ti devi di nuovo spogliare e metterti in pigiama. No, che mi devo mettere il pigiama con la martingala. Oh, via, non lo spaccatruglio, quando fai così ti tengo io. Ahi. Aspetta, aspetta che ti rispondo. Ok, ok, ok, amico, amico, se ascolti un operatore chiaro qua, in isola Sardegna Italia, avanti, Quaselle, mai mai, peppino in tedesco, mai mai, attento, attento, attento, amico, se ascolti qua, in nord di Sardegna Italia, Italia, ho chiamata, prego. Avanti, avanti amico, avanti amico, ascolti l'operatore Sardi qua in isola Sarda. Senti lo spaccatruglio Sardo, cambio. Ah, tutti tedeschi sono, prof. Tutti mangia cartofi. Ma di tu, ti ha detto amico, Emil c'è una stazione dall'Italia che sta chiamando. Regalo un papito al tedesco. Regensis Deutsch. Speak and Deutschen, speak and Deutschen. Mattattu, mattattu. Uia, uia, avevo solo la luce, cacciò un sonno. Ui, ui, ui, ui, ui. Mamma mia, non so manco se scendo, ragazzi. Uia, neanche io ne ho voglia, ma devo andare per forza, cazzo. Se devo riuscire a fare quello che devo fare, bisogna darmi da fare. Ma io sono, guarda, tutti i giorni sono veramente attrezzato, sempre da una parte all'altra, e qua, e là, e fai questo, e fai l'altro, uia, uia, uia, bravo subito. Sorri, hai voluto la bicicletta, e mo devi pedalare. Giallisco sì, giallisco. Purtroppo le nostre azioni hanno delle conseguenze, capito? C'è una stazione libera, guarda, sono tutti le FM, gli su arrivi un bacio arrivi tu. Poi ce ne sono certe stazioni che arrivano 9.10, 9.15. Sì, lo so che arrivano fuori. Oh signore. Vabbè là, vado a mettermi il perigiama con la martingala, se no andiamo male. Ma non ha radio potente, cavolo, uno più forte dell'altro, cazzo, allucinante. È che non se ne comprende una mazza, dico la sua disegni, ciao Natali. Sì, già rientro subito, mi devo solo preparare, perché sennò è un macello. Non voglio andare all'ultimo momento, sennò perdo tempo, capito? Ok, ok. Io sono pronto. vaselina l'hai portata? E a me per forza, se non dopo mi fa male. L'altro chi è, Antonio? Sì. No, c'era Gianni. Il profeta, Saverio. Io sono andato a prepararmi perché devo andare al corso per imparare a riparare i radiatori. Ottimo, ottimo, Natali. Ok, io ho mangiato adesso. Sì, tutto il giorno fuori sono. Cioè, dalla da fine mattinata tutto il giorno fuori. Sono mangiato, adesso mi muto a letto. Ciao Antonio, chi altri c'è? Profeta e Saverio. Antonio non l'ho sentito la verità. Io devo andare a un corso di lavatrici, a più tardi. Corso di lavatrici è uguale, mi è uguale, andiamo Antonio di lavatrici, non te si costa. E io devo diventare radiatorista, capito? Ehi, guarda che c'ho un radiatore che perde, se vuoi così se vai. Ehi, bene, bene, così ti porto una lavatrice. E dato ancora la lavatrice ha fatto 60 pollici, ha schiamato piatto. Se passa di sopra con un coso, con la ruspa, è diventato 60 pollici. E vedi, io invece con una lavatrice mi ho fatto il barbecue. Tu ma che? Quella è la più sicura. E se no con lo scaldabagno tagliato a metà, in orizzontale. Ne avevo uno, avevo il supporto a quattro fili, bello, gli avevo messo questo scaldabagno tagliato in orizzontale, no? È uscito questo, aspetta il telefono, questo barbecue pauroso, un attimo. Io ce l'ho interrato, ce l'ho tuttora anche adesso, però è stato al contrario, ho fatto tagliato una parte più lunga. Perché posso garantire ci stavo avanti con 70 cm e cavo in un bel. Ma è prema me di coglione! Vabbè signori, io vi lascio che devo uscire. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Natali, ma lo sentite il casino di propagazione che c'è oggi? C'è tutta Europa in effetti. Sono quasi la maggior parte, sono tutti tedeschi. Guarda qua adesso l'UTM, qua su questo canale mi sta arrivando 9 più 10. C'ha la radio che è una bomba. Sembra dentro casa. Sì, io ci avrò 2 watt e mezzo utili, a giù mai mi passa. Ehi, ciao Natalino, ciao Antonio, chi altri c'è? Dai, ritenetevi tutti salutati, io mi devo per forza collassare, insomma, di una stanchezza fuori dal comune e anche dalla provincia. Ok, allora il tuo segnale è 9 più 20 e questo in FM, questo tedesco sta arrivando a volte anche 9 e 15 ed è anche abbastanza stabile come segnale. Senta giù mai non pari nemmeno in propagazione. Salve, a me attendi cazzo. Ehi Antonio, già ti sento, ma qua la cosa è tribola perché c'è un po' di propagazione. Capo mio, ho aumentato la potenza, com'è? 9,5,6, se non parla quel tedesco che mi arriva 9,15, sei tranquillo. Basciaccio, a voi da bere. Se ti lo gioco di Zenni, una bomba, ma arriva 9,15, quando vado da lì di un FM non ti intendo. Ehi! Aspetta che devo abbassare, se no Gizio, non funziona che c'è un cazzo di computer di un cazzo. Vai zitta. Ora, così va meglio, lascia. Prova a attaccare la cosa. Adesso ti sei abbassato a fai 8-9, se quello che schiaccia non ti sento più. Non posso andare oltre perché ti ho imballato il computer. Gappa, come stai arrivando in quelle coordinate via via? Tu sei 8, radio 5. Gava, ci sono questi stranieri che sono una fucilata, stanno arrivando veramente forti, sono tutti in FM. Ma eri tu sul 40 prima, che non ti stavo riconoscendo, visto che il suo segnale quando scala in FM. Io in FM li sto ricevendo 9,15, così. è che i sciafforti e i tedeschi vogliono parlare in tedesco, i francesi in francese, in inglese bisognerebbe parlare tutti. E comunque a me piace molto di più la propagazione italiana, almeno poi scambiare due chiacchiere, parlare di due fesserie. Lì a parte il segnale cosa gli dai? Sì, si conferma, è logico. Io guarda, la verità, devo essere sincero, un paio di minuti fa mi sono divertito perché c'è mio cognato che è ospite qua a casa da me ed è tornato dalla Francia, c'era 16 anni, e adesso è ritornato qua e non rimane più in Francia. Quindi si è aperta la propria l'altra notte, siamo usciti a lavorare perché ora attualmente sto lavorando in pizzeria con me, mio fratello. Siamo tornati e c'era la propagazione francese. E quindi io gli dicevo cosa dovevo dire, lui mi diceva cosa dicevano i francesi e quindi gli dicevo di nuovo, dirgli così così così. E lui faceva il tramite, capito? Ma siamo stati più di un'ora parlando con i francesi. 16 anni sono tanti, praticamente è come se fosse una seconda lingua madre, bilingue. Così è bello, almeno puoi scambiare ai quattro chiacchiere e parlare il più del meno, di tutto puoi parlare. Ma qua a biascicare a malapena in inglese, io non so come chiamare, ma poi se hai notato quegli inglesi in FM come parlano anche spediti, no? E se ti vanno a chiedere qualcosa in inglese, boh, e chi li segue? Oh, no, è impossibile. Ma infatti quello che sto dicendo io era bello questo collegamento, perché allora inizialmente ce n'erano uno era di Morno e l'altro era di Lyon. Come mio cognato ha cominciato a parlare, che gli dicevo cosa dire, lui glielo diceva in francese, quelli dopo un po' rispondono e dicono, ma scusami,